radure. Dirette streaming dagli eventi che colorano il tessuto multiculturale della Campania. Buon pomeriggio da Giulia Scalona, la voce che state ascoltando. È una puntata un po' speciale della nostra rubrica che abbiamo chiamato Radure. Non è una diretta streaming da un presidio di accoglienza o da un altro evento speciale, ma è una diretta, una conversazione che stiamo facendo con Massimiliano Nappi. Buonasera. Buonasera, Giulio, grazie. Che è qui collegato. Ovviamente il pretesto è il terribile incendio a Lesbo, nel campo di Moria, e che attualmente vede circa 13.000 persone. Poi Massimiliano forse sui numeri potrà essere più preciso, ma in ogni caso stiamo parlando di un numero esorbitante di persone che si trovano in una condizione di vita estremamente difficile, e questo avviene ben prima del lockdown. È l'unico campo ufficiale dell'isola, e ce ne sono altri che sono spontanei. C'è una difficoltà che arriva da ben prima di questo incendio, e che questo incendio ha purtroppo messo alla luce alcune criticità su cui ci eravamo soffermati anche con un altro attivista di Agropoli, Antonio Nigro, che era stato anche lui lì e che ci aveva descritto le terribili condizioni di vita in cui i rifugiati sono. La crisi Covid ha amplificato tutto questo, e abbiamo contattato Massimiliano Nappi, volontario della comunità di Sant'Egidio di Napoli, perché quest'anno ha partecipato a una vacanza in Grecia speciale. Detta così può sembrare una battuta, ma non lo è. Massimiliano, quindi vengo subito alla prima domanda. Sei stato in vacanza in Grecia quest'estate, ad agosto, con la comunità di Sant'Egidio. Non era la prima volta che eri lì. Ti chiederei per favore di descriverci qual è la condizione del campo di Moria. Sì, Giulio, grazie di questa presentazione. Come dicevi, ho passato circa 2 settimane ad agosto nel campo profughi di Moria, con Sant'Egidio, in questa vacanza alternativa, in questa vacanza solidale, in cui circa 150 volontari da tutta Europa hanno scelto di stare al fianco dei rifugiati. Il campo profughi di Moria ormai versa in condizioni critiche da mesi. Da mesi. Io l'avevo già visto a gennaio, quando c'era un grado e ci fu anche una nevicata tra le tende. E la situazione che trovi quando entri è inimmaginabile, perché, come dicevi tu, ci sono ad oggi 13.000 persone, a gennaio erano 17.000 persone che vivono in un contesto che si fa difficile che è difficile da immaginare. Tende tra gli oliveti, tende su questa collina, perché poi il campo nasce come, diciamo, luogo per ospitare 3.500 persone. Questo è il campo ufficiale. Attorno, dato che sono aumentati poi gli arrivi dei profughi e le procedure del governo greco sono state molto lente per analizzare le domande, attorno si è creato questo grande campo non ufficiale chiamato giungla, in cui vivono migliaia di persone in queste tende. Non c'è acqua, non ci sono servizi igienici, non c'è elettricità, non c'è una scuola per i bambini, non c'è un ospedale, quindi non c'è un sistema sanitario, non c'è un controllo nel campo. C'è un clima di totale abbandono che viene vissuto in prima persona da tutti, e non dobbiamo dimenticare che il 40% degli abitanti del campo profughi sono minori. 40% è un numero importante. Stiamo parlando di 5-6.000 minori, tra cui ci sono anche minori non accompagnati, che sono circa 500, che sono arrivati dalla Turchia in Grecia da soli, senza famiglia. Alcuni non sentono i genitori da un anno, perché gli è stato rubato il telefono appena arrivati e non si ricordano più il numero, e quindi hanno perso i contatti. Lo scenario che vediamo non sembra uno scenario da Europa, sembra il quarto mondo, il quinto mondo. Non mi capacito ancora di alcune scene che ho visto lì, sia a gennaio che ad agosto. Se Prima ti ho detto che il numero è un po' diminuito di migranti sull'isola perché molti li stanno o spostando ad Atene, in altri campi, o li stanno mandando via, li stanno rimandando in Turchia, dopo anche l'accordo che c'è stato tra Unione Europea e Turchia. L'Europa si prende gli afghani, gli iracheni, gli africani, e la Turchia si prende i siriani. Quindi molti siriani ormai vengono rimandati in Turchia senza neanche avere la possibilità di far analizzare la propria domanda, la propria richiesta di asilo, non viene neanche letta. E non so se forse lo sai, sicuramente ci sono stati diversi episodi di barche in mare rimandate indietro, senza neanche avere la chance di approdare, prendere del cibo, dell'acqua. No, sono stati rimandati subito in Turchia, anche perché poi Lesbo è molto vicina alla Turchia, c'è un tratto di costa a 5 km. Cioè si vede a occhio nudo senza problemi. E quindi la situazione che trovi è allucinante. Purtroppo sì, abbiamo visto l'attenzione sul campo, la situazione di Moria è stata al centro dell'attenzione, fortunatamente, di diversi media e hanno mostrato anche i conflitti. Abbiamo sentito i racconti dei conflitti anche di estrema destra, di cittadini Sì. esasperati dalle enormi presenze e dalle condizioni del campo sull'isola. Quindi mi immagino che non c'è un clima anche facile per andare a intervenire nel campo con delle azioni di solidarietà. Quello che siete riusciti a portare di bello, di buono alle persone che vivevano lì ad agosto, cosa è stato? Di cosa vi siete occupati? Allora, noi abbiamo cercato di venire incontro ai bisogni primari, innanzitutto, quindi il cibo. Una delle attività principali era quella di servire pasti in un ristorante solidale, un ristorante dell'amicizia che abbiamo allestito per tutto il mese, dove ogni giorno venivano forniti 1.000 pasti ai rifugiati. Noi andavamo, giravamo per il campo per fare gli inviti e cercare di portare alcune persone a rivivere dopo tanto tempo un momento di gioia, un momento di unione a tavola. C'è da dire che nel campo le persone non sono più abituate a mangiare un piatto caldo a tavola, seduti. Ci sono delle file enormi, lunghissime, per avere un pasto giornaliero, file di 3-4 ore per accedere a questo pasto, spintoni, risse, tensioni, accoltellamenti. Quindi molte persone si sono anche attrezzate per cucinare da soli. Alcune donne afghane hanno creato dei forni sottoterra per fare il pane, pur di non fare queste file. Quindi dare la possibilità di far venire queste persone a questa mensa solidale, a questo ristorante, è stato più che il gesto di dare un pasto, ma era un gesto più forte, era ridare quella dignità che a molti è stata rubata, che hanno perso, che non hanno più. Questa era una delle attività principali. Poi abbiamo spinto su uno degli elementi che manca di più nel campo, è la cultura. Come ti dicevo prima, non ci sono scuole per i migranti, non ci sono scuole né per i bambini, né per gli adolescenti, né per gli adulti. E c'è un forte desiderio di cultura nel campo, stanno nascendo tante piccole scuole fai da te. Abbiamo conosciuto un adolescente di 12 anni, 12 anni, che fa la maestra per 20 bambini. Lei insegna l'inglese a questi bambini. Questo per dire che c'è una grande sete di futuro, di cultura, e noi abbiamo fatto con circa 300, bambini la scuola della pace. Scuola della pace che facciamo anche in Italia, facciamo a Napoli. La scuola della pace è un luogo dove si impara a stare insieme, essere amici, con canti, balli, con la merenda, facendo attività soprattutto didattiche in quel caso, essendoci proprio una mancanza di struttura. E poi abbiamo allestito una scuola di inglese per circa 150 studenti che ogni giorno venivano quelle 2 o 3 ore a fare scuola, a imparare. Non possono restare indietro, non è giusto che tutti questi ragazzi, questi bambini restano indietro e perdono gli anni della loro vita. Io aggiungo poi una cosa sulla condizione del campo, che tu hai detto prima. Non dimentichiamoci che il campo è in lockdown da aprile. Da aprile i migranti non possono uscire dal campo, sono stati confinati lì. E e invece l'isola di Lesbo a maggio ha interrotto il lockdown. I greci sull'isola si muovono liberamente, fanno quello che giustamente vogliono, senza restrizioni. I migranti no, i migranti sono lì e questo ha peggiorato molto le condizioni anche psicologiche di tante persone. Stanno aumentando i problemi psichici tra gli adulti, ma soprattutto tra i bambini. Una scena che non potrò dimenticare facilmente: durante l'ingresso alla nostra mensa, alcune persone cadevano a terra improvvisamente e avevano delle crisi epilettiche. È da approfondire poi capire qual è il nesso, però c'è un nesso, perché c'è stato un aumento di situazioni del genere che a gennaio non c'era, quindi c'è un peggioramento forte. Però grazie a queste iniziative che ti dicevo, io credo che nel nostro veramente piccolo, abbiamo fatto forse qualcosa di importante per le loro vite, donando quella speranza che tanti avevano perso. Io ne sono convinto ed è la cosa che spero, perché chiaramente sentire le parole di chi è stato lì e ha conosciuto queste persone, ha visto e sentito le loro storie, è difficile da sopportare a livello per chi appunto si trova a vivere in una condizione di privilegio come europeo. E la seconda domanda, la terza domanda, la domanda che ti faccio è questa: c'era da aspettarselo un evento così catastrofico, guardando le premesse di estrema confusione, precarietà e abbandono in cui versano queste persone? E l'altra è come viene vista questa doppia faccia dell'Europa da parte delle persone che vivono lì, questa doppia faccia che da un lato li trattiene lì, li tiene confinati e esclusi dal futuro che loro immaginano e quello che invece rappresenti tu, rappresentano gli altri volontari che sono arrivati dall'Italia, da altri paesi europei che invece lottano assieme a loro, cercano di coltivare il loro sogno di futuro. Sì. Allora parto dalla prima cosa che hai citato, questo disastro che è accaduto ieri sera, veramente un disastro perché un incendio così grande non c'era mai stato nel campo, c'erano stati altri incendi, c'erano stati uno anche grave a marzo che aveva causato anche la morte di un bambino e questo per dire che assolutamente era prevedibile, proprio per le condizioni precarie del campo, proprio per la situazione allucinante in cui erano sistemate le tende su una collina senza nulla, era prevedibile anche perché c'è tutta natura attorno al campo, l'isola è molto ventosa e è molto facile che si presenti un incendio. Ora sarà sicuramente da verificare cosa è successo ieri, ma era una situazione, non bisognava arrivare a questo, bisognava evitare tutto questo. Perché se tu confini 13.000 persone, 17.000 persone in un campo senza diritti, allora vuol dire che vuoi cercare poi una situazione del genere. A noi ci sono arrivati messaggi di persone disperate ieri sera, che chiedevano aiuto, non sapevano che fare, le tende bruciate, l'aria irrespirabile, sono scappati tutti dal campo e si sono riversati tutti, hanno cercato di raggiungere Mitilene, che sarebbe, diciamo, la città più importante, più vicina al campo, e sono stati bloccati. Ci sono alcune foto che mostrano migliaia di migranti ammassati lungo le strade che non riescono ad accedere agli aiuti. La polizia sta bloccando i soccorsi. Le ONG che lavorano lì non hanno la possibilità di aiutare le persone in questo momento, tant'è che ci sono altri rifugiati che vivono in altri campi, per esempio il campo di Karatepe, che è un campo attrezzato, autogestito, sta preparando cibo per migliaia di persone. Quindi la situazione ora è veramente fuori controllo. C'è un malcontento sull'isola, i greci locali non ne possono più, non ne vogliono sapere più nulla e fa male perché loro erano i primi, a inizio emergenza nel 2015-2016, erano i primi ad aiutare i migranti. Andavano in mare a prendere dalle barche, cucinavano da casa e li portavano a mangiare. Ora però dopo 5 anni sono esasperati perché nessuno li ha aiutati. È una situazione che ricorda anche un po' la nostra Lampedusa in Sicilia. Quindi come poi l'abbandono, la mancanza di tutele crea malcontento, crea muri. Quindi siamo noi, io e gli altri volontari siamo veramente preoccupati per il futuro di queste persone e chiediamo anche alle istituzioni, all'Europa di fare qualcosa, di non lasciare da sole queste persone, innanzitutto di spostarle in strutture attrezzate. Non stiamo parlando di criminali, stiamo parlando di richiedenti asilo che scappano da guerre, da fame. Questo è un concetto che andrebbe chiarito meglio. E sul secondo punto che tu dicevi, proprio sull'atteggiamento nei nostri confronti dell'Europa, c'è tanta delusione perché in molti sono partiti per un futuro migliore, una speranza migliore, credendo che casa loro era l'inferno, che era il posto brutto in cui erano nati, e hanno trovato un posto peggiore in cui vivere, in cui crescere. Ci sono persone che dopo 2 anni devono ancora fare l'intervista per capire che fine devono fare. Ci sono ragazzi a cui è stata declinata per 2 volte la richiesta e quindi ora sono illegali. E vivono nascosti nella foresta, non vogliono tornare né in Afghanistan né in Siria, non vogliono andare in Turchia, vorrebbero soltanto vivere. E questo è quello che fa più male. Fortunatamente c'è appunto un'Europa, ci sono persone che invece di allontanarsi dalle frontiere, come probabilmente sta facendo l'Europa con la Libia, con la Turchia, Sì. appunto le storie sembrano molto simili. Fortunatamente ci sono persone come te che ce lo raccontano, ci sono persone come te che vanno lì e che cercano in modo concreto di dare a queste persone comunque un gancio di speranza e che si distinguono da tutto il resto. Quindi io ti ringrazio per la disponibilità, per quello che ci hai raccontato, che è qualcosa di molto difficile da immaginare. Io sono convinto di questa cosa, ma con le tue parole così nette, chiare e precise, viene delineato un quadro semplicemente drammatico. E grazie anche di questo perché c'è bisogno di portare attenzione su questo tema. Sì. Lì Giulio, a Moria, sì. sì. No, Giulio, sono io che devo ringraziare te perché hai creato un'opportunità di dare voce a chi non ha voce, di raccontare la storia a chi ormai è emarginato totalmente dal nostro mondo occidentale. Quindi grazie a te e speriamo che si possa presto arrivare ad una soluzione seria e umana. Speriamo bene allora per il futuro di queste persone e che qualcosa cambi quanto prima. Buonasera a tutti e a risentirci alla prossima. Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante, vai sul sito www.stranierincampania.it. RAM vive all'interno di Impact, FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima.